Angelés Mastretta. La letteratura prodotta dalle donne latinoamericane è un mondo tutto da scoprire. Tutte hanno uno stile particolare, brillante, ironico e inaspettato. Tutte conosciamo e amiamo i meravigliosi romanzi della messicana Laura Esquivel e della cilena Isabel Allende. Di Laura Esquivel sono stati registrati su questo canale Come l'acqua per il cioccolato, letto da me, e Malinche, letto da Giorgia. Vogliamo ora proporre un'altra straordinaria autrice per la quale la scuola delle donne ha un debito di gratitudine. È Ángeles Mastretta, classe 1949, donna di grande eleganza, classe e carisma. Ángeles appartiene sicuramente alla buona società intellettuale messicana. Proveniente dal giornalismo, ha poi colto al volo l'occasione di potersi dedicare solamente alla scrittura. Offriamo qua la lettura di Donne dagli occhi grandi, una serie di potenti ritratti femminili di donne ardite, libere, indipendenti, le zie lei le chiama, che riescono a raggiungere la loro emancipazione nei modi più creativi e disparati e con una buona dose di immancabile umorismo. Ma dietro a questo delizioso libro si nasconde una toccante vicenda ed è a questa che la nostra scuola delle donne è debitrice. L'ultimo dei racconti, infatti, è la storia della zia José Rivadeneira, la quale, dopo aver dato alla luce una bimba, assiste con orrore alla sua malattia e conseguente ricovero ospedaliero. All'ospedale, però, le cure non hanno successo e la bimba peggiora. La madre assiste impotente e frustrata, finché non prende una decisione epocale. Siede accanto al letto della bambina e comincia a raccontarle le storie delle sue zie, poiché si tratta di donne della sua famiglia. Di seguito cito il brano esatto tratto dall'ultimo racconto di Donne dagli occhi grandi, quello che ci svela l'origine di tutto il libro, nella traduzione di Gina Maneri. Tornava allora a sedersi sulle panche accanto alla porta. Il capochino senza appetito né voce, astiosa, intrattabile, fervente e disperata, che cosa poteva fare? Per che cosa doveva vivere sua figlia? Che cosa poteva offrire al suo corpicino pieno di aghi e sonde per fargli venire voglia di rimanere al mondo? Che cosa poteva dirle per convincerla che valeva la pena di fare lo sforzo di non morire? Una mattina, senza sapere perché, ispirata solo dai fantasmi del suo cuore, si avvicinò alla bimba e cominciò a narrarle le storie delle sue antenate. Chi erano state, con quali uomini avevano intrecciato le proprie vite prima che la bocca e l'ombelico di sua figlia si formassero in lei? Di che pasta erano fatte, quante traversie avevano passato, quali pene e quali gioie le avevano lasciato in eredità? Chi aveva seminato con coraggio e fantasia la vita che toccava a lei prolungare? Per molti giorni ricordò, immaginò, inventò. Ogni minuto di ogni ora disponibile parlò senza tregua all'orecchio di sua figlia e finalmente, la sera di un giovedì, mentre narrava instancabilmente una delle tante storie, sua figlia aprì gli occhi e la guardò con occhi avidi e pieni di sfida, come sarebbe stato il resto della sua lunga esistenza. Il marito della zia José ringraziò i medici ringraziarono i progressi della scienza, la zia abbracciò la sua bambina e lasciò l'ospedale senza dire una parola. Soltanto lei sapeva chi doveva ringraziare per la vita di sua figlia. Soltanto lei ebbe sempre la certezza che nessuna scienza era mai stata tanto efficace quanto quella celata nelle difficili e sottili scoperte di altre donne dagli occhi grandi. Ecco, la zia José non è altri che la stessa Ángeles. Questa storia è infatti autobiografica, poiché fu la figlia di Ángeles che si ammalò nella realtà e fu a lei che la scrittrice raccontò le storie delle sue antenate, le donne della sua famiglia, che la guarirono e che poi diventarono lo spunto per questo meraviglioso libro uscito in Messico nel 1990. La coscienza dell'eredità delle antenate che guariscono le ferite e ci aiutano a risvegliare le memorie della nostra regalità e a ricollegarci con il nostro lignaggio matrilineare, sanando ogni frattura, è il debito che la scuola delle donne ha con la zia José e con Ángeles Mastretta. L'eredità delle nostre antenate è intesa come fonte a cui abbeverarci per ricreare le nostre radici e appunto la base portante della nostra scuola e del nostro metodo, la scuola delle donne in cerchio. Ecco dunque Donne dagli occhi grandi di Ángeles Mastretta, Giunti edizione 1996, tradotto da Gina Maneri e letto da Giorgia. Da Devana, buon ascolto.